Tutti-tutti-flutti. Tutti-tutti-flutti. Prima-tutti-prima-tutti. Be a lutti-tutti. Find yourself your cutie. Why should it be slutty? Rum-ba-ba-doo-ba-ba-rum-bum-bum. Go to the newest Super Bowl. Do yourself a favor. Got a taste in vitamin. Got the modest bestest flavor. Tutti-tutti-flutti. Do your thing, tutti-flutti. Tutti-tutti-flutti. Tutti-tutti-flutti. Yourself your cutie. Why should it be slutty? Love, love, love, love, love. Go to the nearest Super Bowl. Do yourself a favor. Got a taste in my mind. Got the modest bestest flavor. Tutti tutti flutti. Do your thing, tutti flutti. Do your thing, tutti flutti. Tutti do your thing, tutti. Tutti tutti flutti. Tutti tutti flutti.